perché questo libro? Perché secondo me stanno nascendo, si sta riproducendo una doppia storia. La storia per il principe e la storia per le masse. Se la storia è la spiegazione del presente, è quello che deve aiutarti a prendere le decisioni politiche nel presente, va da sé che falsificare la storia è un po' come barare al solitario e prendersi in giro da soli, a meno che tu non faccia un'operazione, non produci una storiografia e un meccanismo di analisi per le classi dirigenti, e poi invece un sottoprodotto, una storia manipolata per gli altri come strumento di consenso, come strumento di manipolazione ideologica della gente, dei cittadini, chiamali come vuoi. Io credo che questo sia uno degli aspetti più rilevanti delle dinamiche culturali del nostro tempo e del tentativo di ricostruire una modernità privata completamente della sua anima democratica, della sua anima anche delle sue premesse rivoluzionarie. Tentativo è quello di produrre una storia, guarda, l'attacco più serio non è neanche quello alla resistenza o al 68 o il revisionismo olocaustico. L'attacco più insidioso è quello, per esempio, alla rivoluzione francese al 700, all'idea che la modernità avrebbe potuto nascere senza la rivoluzione, la delegittimazione della rivoluzione, che è la delegittimazione del principio di potere dal basso e quindi di democrazia. Mi sembrava che questo fosse importante, per questo ho cercato di scrivere questo libro.